Allora, finalmente siamo con un po' più di calma, forse riusciamo di nuovo a parlare allora di questo pronunciamento caldo caldo di essere fatto. Con chi sei? Allora, pronto, buonasera. Sì. Eccoci, siamo qui, abbiamo creato pure una sorta di circolo, abbiamo un po' di ospiti, come si fa, no? Sì. Solitamente abbiamo l'avvocato Romeo qui accanto a me, adesso commenteremo a caldo la sentenza, magari ce la spiegherà un po' meglio. Abbiamo Mina qui accanto a noi, che è una delle ragazze che sta all'interno della scuola terza. Però partiamo proprio con Francesco, visto che ora ci stanno anche cacciando. Partiamo adesso con Francesco e commentiamo la sentenza. Diciamo che la cosa importante che esce fuori da questa sentenza, che magari non c'è neanche ci aspettavamo, è il fatto che rimane l'interdizione dei pubblici uffici per i vertici della polizia, e questo vuol dire parecchio per le carriere di alcuni di questi personaggi. Lo ricordavamo in questi giorni, uno degli imputati è Gratteri, quello che era stato indicato come il futuro capo della polizia. Dunque qualcosa si è mosso anche all'interno. Questo è quello che rimane la soddisfazione dei ragazzi, delle ragazze della Diaz. E niente, ora insieme a Francesco commentiamo la sentenza. Ok, grazie. Pronto? Eccoci qui. Allora, dici subito, insomma, commentaci un po', tu che appunto sei quello che, insomma, profondamente conosce la scena. Sì, questa sentenza ha praticamente confermato la sentenza d'appello, esclusi alcuni aspetti marginali di contorno, ecco. E quindi risulta confermata la condanna e accertata la responsabilità penale di tutti e 28 gli imputati e soprattutto della catena di comando. Ecco, infatti diciamo questa cosa dell'interdizione dei pubblici uffici, cosa può comportare appunto, no? Beh, l'interdizione dei pubblici uffici significa che queste persone non dovrebbero più rimanere dentro il corpo di polizia. Questo però è un dato che va valutato, perché poi il Ministero degli Interni avvierà dei procedimenti disciplinari e si vedrà che cosa accadrà. Di fatto però è un macigno sulla possibilità che queste persone possano rimanere dentro il corpo di polizia. Ecco, va bene, che se hai altri commenti, chiaramente questo è... ti lasciamo il microfono. Altri commenti? No, dico, se hai altri commenti su questa sentenza da dirci. Beh, il commento da fare, direi, al di là dell'aspetto giudiziario, è che comunque questa è una pagina nerissima della nostra Repubblica, che non è stata mai affrontata come andava fatto dalla politica, che ha preferito, come dire, delegare alla magistratura un accertamento parziale di quello che è avvenuto, perché ovviamente è un accertamento parziale quello che riguarda 28 persone per quello che è accaduto alla scuola Diaz la sera del 21 luglio. È una verità giudiziaria e di questa ci dobbiamo per il momento accontentare. Va bene, io ti ringrazio. Non so se ci vuoi passare appunto qualcun altro, dei anche testimoni oltre che avvocati che sono lì. Come puoi immaginare, qui i momenti sono un po' concitati. Certo, immagino. E noi siamo, guarda, il problema è che ora ci stanno cacciando e dobbiamo lasciare il palazzo, però magari ci risentiamo, tempo di guadagnare l'uscita tra 5 minuti, perché comunque magari anche con Simonetta Crisci, un altro degli avvocati, insieme appunto ad alcune delle persone che sono arrivate fino a qui a Roma, che erano dentro la Diaz e sono arrivate qui a Roma per questa sentenza, magari commentiamo anche con loro. Ovviamente per noi come campagna anche cambia molto ma molto poco per quanto ci riguarda, prendiamo sì, atto sì. Di questa sentenza, che onestamente arriva pure un po' inaspettata, diciamo che tutti quanti pensavamo a qualcosa di diverso, però ne prendiamo atto e questo è. Appunto, sentiamoci tra 5 minuti, tempo di riorganizzarci qui all'uscita e se niente torniamo di nuovo in diretta. Va bene. A tra un po' allora. Ciao, a dopo. Ciao.